Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in attesa di capire, ma appunto lo sapremo più tardi, le decisioni del governo su e quali regioni poi entreranno in altri colori, primis Piemonte e Lombardia, che dovrebbero, uso condizionale, diventare arancioni. Molti mi stanno scrivendo: ma la differenza? Beh, non ci sono enormi differenze, se non qualche differenza importante c'è sulla scuola, per esempio, sulle classi delle medie inferiori, sullo spostamento dentro il comune, se diventi arancione, che è autorizzato, e anche sugli esercizi commerciali che sono aperti, i negozi, tranne bar e ristoranti, per cui invece resta sempre la possibilità del solo asporto o della consegna a domicilio. Per cui qualche differenza c'è, non certo come nelle zone gialle, ma questo lo sappiamo tutti. Per quello che riguarda i mercati, oggi l'assenza di Wall Street, il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, non dà appunto un'indicazione dall'America. Le borse oggi stanno realizzando meno 0,35% Milano, che comunque resta sopra i 22.000, anzi 22.200 punti, Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra meno 0,50%, si segnala Telecom Italia più 4,80% e A2A più 4%, Pirelli, per quello che riguarda sempre Piazza Affari, più 2,70% e Steamark Electronics più 1,80%. A2A ha annunciato un accordo con Ardian per l'idrogeno verde, per sviluppare l'idrogeno verde, e poi Team Telecom va molto bene. Ci sono indiscrezioni che il governo italiano avrebbe chiesto a Vivendi di non ostacolare eventuali operazioni sulla rete unica. Il 17 dicembre nel Consiglio di Amministrazione di Enel, come ci ha ricordato anche due giorni fa l'amministratore delegato Starace, sarà discussa l'offerta di Macquarie. Interessante, e ne parleremo nel corso dei mercati, l'andamento del credito valtellinese, perché, adesso devo andare a riprendere il titolo, i vertici hanno definito ostile e non concordata chiaramente l'offerta del Crédit Agricole, ma il titolo Credito Valtellinese, Creval, restava tutta la giornata sopra i livelli dell'offerta del Crédit Agricole, e da questo punto di vista ne parleremo appunto nei mercati finanziari. I temi, dicevo, di questa giornata: si conclude domani il viaggio che Radio 24 ha compiuto, questa volta virtuale, in tutta Italia, lungo tutta la penisola, assieme a Intesa San Paolo, con il progetto Imprese Vincenti, quindi 144 imprese in diversi settori. Quest'anno si è aggiunto anche il terzo settore, che sono vincenti non perché siano meglio di altre come giudizio assoluto, ma perché hanno delle caratteristiche che si vorrebbe che altre imprese copiassero, se si può dire usare questo termine, o comunque emulassero. E quindi, come ogni anno, come l'anno scorso, abbiamo scelto delle imprese a livello esemplificativo, a livello emblematico, non perché siano solo loro, e per capire poi che cosa le renda così vincenti sui mercati e quindi anche sui bilanci, sui fatturati. Ne parleremo con il numero 2 di Intesa San Paolo, Stefano Barrese, per fare anche il punto invece sui prestiti bancari alle imprese, alle famiglie, e anche il lato moratorie. Sono due cose diverse: uno sono i prestiti, quelli fino a 30.000 euro garantiti, poi si arriva fino a 5 milioni, poi entra in gioco la Cassa Depositi e Prestiti, e altra cosa sono le moratorie, quindi la sospensione dei pagamenti, sia delle imprese che delle famiglie, mutui, ma non solo, anche altri prestiti, che appunto è stata prorogata. Adesso vedremo se il 31 gennaio verrà riprorogata, l'intenzione, da quello che ho capito, è di arrivare almeno fino a metà anno, e quindi in quel caso semplicemente viene allungato il prestito, spostato, insomma, di un anno, verrebbe spostato di un anno il rimborso, ma ne parleremo a breve. Continua invece anche il nostro viaggio nei vari settori industriali. Oggi è la volta del settore degli allestimenti fieristici, perché loro lamentano che il governo ha inserito tra gli aventi diritto dei ristori, nel ristori 1, ristori 2, e sul 3 è semplicemente il posticipo delle scadenze fiscali, il 4 dovrebbe invece contemplare, come abbiamo spiegato, anche nuove categorie che sono rimaste escluse. Ecco, il settore degli allestimenti fieristici, che valeva circa 1,5 miliardi di euro l'anno, valeva perché l'80% è andato in fumo, sono coinvolti 120.000 lavoratori, sappiamo che le fiere sono sospese, ma lamentano il fatto che solo il 14% delle aziende del settore è stato inserito tra gli aventi diritto ai ristori. E sono molto preoccupati per il futuro. Abbiamo visto Vinitri, cioè aveva in parte già annunciato il direttore generale della Fiera di Verona Mantovani. Il Vinitri ha posticipato l'edizione dell'anno prossimo a giugno, nell'ipotesi, immagino, che per giugno, tra l'elemento climatico, ma soprattutto vaccini e terapie, vi possa essere una fiera in presenza. E invece che nel periodo tradizionale che era tra marzo e aprile. Parleremo con loro, parleremo anche del Recovery Fund, perché oggi se ne è occupata in maniera molto dettagliata Assonime, perché c'è stato un rapporto sul quale è l'assetto istituzionale per l'impiego dei fondi Next Generation EU, cioè si vuole capire quale sarà l'organizzazione di quella che, con un termine che a me non piace molto, si chiama cabina di regia, cioè come, a chi farà capo, chi controllerà i progetti, chi verificherà lo sviluppo dei vari progetti, perché su questo non c'è ancora molta chiarezza, ma ne parleremo con il presidente di Assonime, che è l'associazione tra le società italiane per azioni, e quindi ne parleremo con Innocenzo Cipolletta. È arrivata una proposta da Assonime, dico già, di un ministero ad hoc, cioè un ministero che si occupi proprio del Recovery Fund. Devo dire che un po' di preoccupazione ce l'ho anch'io nel rischio di un accentramento eccessivo alla presidenza del Consiglio. Cioè, vorremmo avere anche dei nomi e delle figure di forte impatto e anche di grande capacità decisionale su questo. Comunque, questo lo affronteremo alle 18.10, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, l'economia internazionale, il capo economista della BCE, da Banca Centrale Europea, Philip Lane, dice che la ripresa sarà lunga e piena di rischi, il percorso di ripresa sarà comunque lungo e pieno di rischi, gli sviluppi economici saranno incostanti e disomogenei nei paesi per un po' di tempo. Ancora Angela Merkel oggi, parlando al Bundestag, ha detto: può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario. La Germania sta spingendo invece perché l'Unione Europea vieti le vacanze sciistiche fino al 10 gennaio. Merkel ha chiarito di voler fare un accordo e di voler tentare un accordo con i vicini europei, aggiungendo però che non sarà facile. L'Unione Europea invece di nuovo oggi ha ribadito, l'ha detto il portavoce della Commissione, che la decisione sull'attività sciistica è di competenza nazionale non europea. Occorre prudenza nel revocare le misure anti-Covid, però sostanzialmente ha detto l'Unione Europea: noi non possiamo farci nulla. Ho visto che nel DPCM, dalle varie ipotesi che circolano, c'è anche quella della quarantena per chi va in alcuni paesi. Mi sembra cosa buona e giusta, almeno cerchiamo di dissuadere chi vuole. Avesse intenzione di andare in Svizzera o in Austria, se non si riuscirà a trovare un accordo, perché ci sarà l'obbligo di quarantena al rientro, secondo le indiscrezioni. Adesso poi non voglio anticipare un DPCM che ancora non conosciamo nei contenuti. La Banca Centrale Europea ha detto che da questo punto di vista è stato fatto presente che andrebbero incoraggiate le iniziative di bilancio pubblico per affrontare i crediti deteriorati e assicurare un'adeguata capitalizzazione del settore bancario. E poi ancora sul Recovery Fund chiede la Banca Centrale Europea che venga reso operativo senza ritardi. In realtà queste sono le minute, cioè i dettagli della riunione dello scorso 29 ottobre. E secondo quanto riportano molti media, la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha risposto con una lettera al Premier ungherese Orban e al polacco Morawiecki in merito alle obiezioni sollevate, sappiamo, sulla condizionalità dello Stato di diritto. C'è attesa oggi per il vertice tra il Premier polacco e quello ungherese, quindi Orban appunto e Morawiecki, a Budapest, per capire se dai due paesi verrà fatto un passo in avanti rispetto, diciamo, al bilancio dell'Unione Europea e anche al Recovery Fund, che attualmente è bloccato. Il nostro Sergio Nava ha chiesto alla Presidente della Commissione Affari Economici dell'Europarlamento, Irene Tinagli, se ci si attende una svolta o comunque un passo in avanti da Budapest oggi. È quello che mi auguro, è quello che ci auguriamo tutti, anche perché penso che si saranno resi conto che si sono infilati in una trappola da soli, perché questo veto va a danneggiare i loro cittadini più ancora che il resto d'Europa. La posizione polacca può essere quella un po' più debole, cioè possiamo sperare in qualche modo, affinché questo recovery fund parta, che Varsavia sostanzialmente si tiri indietro e lasci l'Ungheria col cerino in mano? Ma vede, in effetti la Polonia è il paese che ha più da rimetterci, perché è il paese che ha beneficiato e beneficerà, secondo gli ultimi, diciamo, piani sia del bilancio pluriennale che il Just Transition Fund per la transizione ecologica, il recovery. Caspita, è un paese che davvero ha solo da perdere da questo veto, ma in maniera molto pesante, per cui è possibile che sia la Polonia quella che per prima fa un passo indietro, ma non si può mai sapere, ecco. Vedo molti messaggi sul ma perché dobbiamo complicarci la vita, basta bloccare. Adesso io non ho ancora visto il DPCM, mi riferisco a chi volesse andare all'estero a sciare, all'estero, Svizzera, Austria, Slovenia, di questo stiamo parlando, visto che in Francia gli impianti sono chiusi. Non voglio commentare, cioè qualcuno mi fa sapere, mi spiego come si fa a sapere se vado in Austria. Beh, insomma, e si possono anche mettere i controlli alle frontiere. È lo stesso motivo per cui abbiamo messo la quarantena perché veniva dalla Grecia, dalla Spagna durante l'estate, e non solo. Per cui attenzione, dopodiché vedremo, perché se il DPCM impedisce lo spostamento tra regioni, tranne che per i congiunti stretti, cioè i parenti più stretti, è ovvio che va da solo, che se non ti puoi spostare da una regione all'altra, a meno che tu non vada a incontrare tuo padre o tuo figlio, dubito che tu possa uscire dalla regione per andare a sciare in Austria, ammesso che ci siano dei geni che non vedono l'ora di andare a sciare in Austria o in Svizzera. Allora, è partito oggi da Malpensa alle 13.45 per la precisione il primo volo Covid free internazionale con destinazione Nanchino. Il volo è operato da Neos e fa appunto Milano Malpensa a Nanchino, è l'unico attualmente operativo fra Italia e Cina, e ha messo praticamente nel protocollo un terzo tampone rapido durante il check-in che va a sommarsi, se uno vuole imbarcarsi, al tampone molecolare e al test sierologico richiesti dalla normativa cinese, che vanno effettuati entro le 48 ore che precedono la partenza. Una volta atterrati a Nanchino è previsto un ultimo tampone che riconfermi la negatività. Quindi, se ho ben capito, uno deve farsi il molecolare, il sierologico entro 48 ore prima della partenza. Poi ci sarà un tampone rapido durante il check-in e quando atterri ti fai il quarto tampone in Cina. È comunque interessante come protocollo, perché abbiamo raccontato in questi giorni, per esempio, della Qantas che ha detto si potrà imbarcare sui nostri voli da e per l'Australia solo chi ha fatto il vaccino e può provare ad averlo fatto. E il nostro Enrico Pagliarini ha chiesto appunto del protocollo, di come si è arrivati a questo protocollo, all'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti. La novità consiste nella decisione di effettuare anche in aeroporto una seconda screening dei passeggeri che già ne hanno fatto uno nelle 48 ore antecedenti la partenza, quindi un test che viene fatto in collaborazione con il gruppo San Donato proprio prima del check-in, con l'idea di eliminare il rischio che un passeggero in partenza risulti infettato nelle ore immediatamente precedenti la partenza stessa. Al di là della maggiore sicurezza a bordo, ci sono anche dei vantaggi per i passeggeri che arriveranno in Cina? No, la procedura di gestione che li riguarda in Cina non viene modificata, è maggiore soltanto il livello di sicurezza nel momento in cui salgono su un aeroplano, quindi quando questi passeggeri arrivano in Cina sono comunque di nuovo controllati e dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, a prescindere dal fatto. Senta, questo è un volo regolare tra Milano e Nanchino in Cina. Sì. Ed è uno dei pochi voli tra Italia e Cina. No, è l'unico. È l'unico. E oggi è l'unico volo diretto tra i due paesi. E mi chiedo, la maggior parte di questi passeggeri sono italiani o cinesi o di altre nazionalità? In questo momento sono tutti cinesi, perché nelle ultime settimane l'autorità cinese ha deciso di sospendere il rilascio di visti a favore di cittadini non cinesi, con un riempimento massimo del 75% della capacità dell'aeromobile. Quindi questo è un 787 Dreamliner da 359 posti che viene riempito ad un massimo di 269, e questi erano i passeggeri che avevamo a bordo oggi. Ancora qualche notizia sull'Italia. Oggi il Tesoro ha collocato in asta il BOT a 6 mesi, il tasso è calato ancora meno 0,518, questo perché appunto c'è la Banca d'Italia che tramite, o meglio la BCE che tramite la Banca d'Italia continua a comprare debito italiano. La domanda buona, nel senso che 2,2 volte l'offerta, era di 13 miliardi. Per quello che riguarda l'Istat, oggi ha diffuso da un lato il dato sull'export extra Unione Europea, che invece a ottobre, dopo i buoni dati a settembre, era cresciuto, e anche ad agosto torna in flessione, meno 2,6% rispetto a settembre, ma soprattutto meno 10% l'export fuori dall'Europa rispetto all'anno prima. Poi il fatturato del settore servizi, che nel terzo trimestre è balzato, ha fatto più 26% sul trimestre precedente, ma è ancora sotto di un 7% rispetto all'anno prima nel terzo trimestre. Nello specifico, forti aumenti vi sono stati per le attività professionali, scientifiche e tecniche, più 27%, per il commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli, motocicli, più 26%, trasporto e magazzinaggio, più 20%, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, più 16%. Invece le agenzie di viaggio, questo al terzo trimestre sul secondo trimestre. Se invece si guarda l'anno su anno, è chiaro che la fotografia è completamente diversa, perché le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese fanno meno 22%, il trasporto e magazzinaggio meno 17% e attività professionali scientifiche meno 6%. Tengono invece, anche rispetto all'anno prima, commercio all'ingrosso, riparazione di autoveicoli sostanzialmente meno 0,8%, e servizi di informazione e comunicazione meno 0,2. Poi però, se si va nel dettaglio, la FIPE, quindi i bar, i pubblici esercizi italiani, segnala come il terzo trimestre comunque veda un fatturato del 16% in meno rispetto all'anno prima. Quindi anche nel terzo trimestre, che è stato il trimestre migliore da quando c'è il Covid, e sicuramente è stato migliore di quello che sarà il quarto trimestre, c'era comunque un calo del 16% sull'anno precedente, che è un calo ancora, diciamo, contenuto. Il problema è che poi si sommerà il quarto trimestre con molti bar e pubblici esercizi chiusi, se non per l'asporto. Il calo del fatturato invece nel mondo alberghiero è del 52% nel periodo gennaio-settembre rispetto a un anno prima. Approvato, ma lo sapete anche nei nostri GR, lo scostamento di bilancio, un voto quasi unanime, un dato politicamente molto importante, perché appunto non vi è stato nessun contrario, anche l'opposizione ha votato a favore allo scostamento di bilancio, 552 sì e 6 astenuti, nessun contrario. Via libera appunto anche al Senato con 278 sì, oltre che alla Camera, anche in questo caso solo 4 astenuti e 4 voti contrari. Il centrodestra ha votato a favore, il Premier Conte ha parlato di un ottimo segnale, spero che il dialogo prosegua. E questo scostamento finanzierà sostanzialmente il decreto ristori 4, quello che serve a rinviare le scadenze fiscali del governo, le storie 3, scusatemi. Per quello che riguarda invece lo scostamento, Misiani ha detto quasi tutti gli 8 miliardi saranno per il rinvio delle tasse. E infatti appunto lo scostamento servirà tutto per il rinvio delle tasse. Nel nuovo DL Ristori, e quindi il quarter, vi sarà, oltre che un riequilibrio dei soldi da dare a chi è entrato in zona rossa, anche un ulteriore rinvio delle tasse fino al 30 aprile e un ulteriore impegno per i settori più colpiti. Lo stop delle scadenze fiscali sarà per tutti e nel Ristori quarter devono entrare anche gli autonomi, quindi le categorie che erano state in parte escluse, e anche a questo serve lo scostamento di bilancio, perché c'è la risoluzione di maggioranza allo scostamento di bilancio che prevede che nel quadro delle risorse bisogna rafforzare l'efficacia degli interventi per il sostegno dei lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti attraverso l'ampliamento della moratoria fiscale a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti. Quindi entreranno nella moratoria fiscale, nel posticipo dei pagamenti fiscali, anche i lavoratori autonomi. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti. Dunque, qualche aggiornamento d'agenzia: si va verso un Consiglio dei Ministri convocato per domenica pomeriggio per il varo del decreto Ristori Quater, che ripeto è quello che permetterà la sospensione delle scadenze fiscali di novembre e le rinvierà all'anno prossimo. Da quello che si è capito, si va a un rinvio delle tasse fino al 30 aprile per chi abbia subito perdite di fatturato a causa del Covid. Ma il Ristori 3 invece, lo so che si fa un po' di casino con 1, 2, 3, il Ristori 3 è quello che vale 1,5 miliardi e semplicemente ha integrato il Ristori 2, perché altre regioni, la Toscana per esempio, sono diventate da gialle a rosse, quindi devi mettere anche per tutte le categorie coinvolte i soldi per il ristori, anche perché in alcuni casi, se tu eri giallo, avevi, penso agli alberghi e ai ristoranti, avevi il 150% di quanto preso a aprile. Se vai in zona rossa, siccome i ristoranti sono chiusi tranne che per asporto, vai al 200%, quindi sono i soldi che servono a dare i ristori delle nuove zone rosse, il 3. Il 4 invece è quello che dovrebbe portare appunto al rinvio delle scadenze fiscali. Poi vedremo sul 5, dovrebbe essere invece un ristoro, ma è troppo presto per parlarne, ne ha già accennato a questi microfoni Gianni Trovati, dovrebbe essere il decreto che invece va a integrare ulteriormente le perdite, probabilmente guardando non solo il fatturato di aprile, perché per ora vale la regola del 30% su aprile, è superiore al 33% su aprile, e guardare un periodo più lungo e introducendo anche altre categorie. Comunque andiamo con ordine, parliamo adesso di banche e credito e della tappa finale, l'ultima del viaggio che abbiamo compiuto con Intesa San Paolo, imprese vincenti. E Allora sì, parliamo di banche, imprese, credito alle imprese, ma lo facciamo anche perché domani si chiude a Milano il tour digitale, quest'anno non poteva essere altrimenti, che abbiamo seguito come Radio 24 con Intesa San Paolo, il tour imprese vincenti, dove, come ricorderete, grazie anche agli approfondimenti del nostro Andrea Ferro, abbiamo fatto praticamente un giro, ripeto, virtuale della penisola, evidenziando in tutto sono 144 eccellenze italiane. Abbiamo fatto 12 tappe, lo ricordo per chi se le fosse perse: Milano, Firenze, Torino, Roma, Napoli, Padova, Brescia, Bari, Bologna, Bergamo e Cuneo, oltre alla tappa dedicata alle imprese del terzo settore. E appunto faremo anche un bilancio complessivo delle candidature, ma vorrei partire con Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori del gruppo Intesa San Paolo. Buonasera Barrese. Sì, buonasera a voi. Banca dei territori vuol dire 11 milioni di clienti e 750.000 tra imprese e aziende retail. Adesso arriveremo anche un bilancio di questa edizione, però a ieri la notizia, come sempre, da l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia, quindi finanziamenti che sono stati richiesti alle banche che poi li girano al fondo di garanzia, hanno superato i 108 miliardi di euro, 1.330.000 domande, di cui quasi 1.997.000 che riguardano la fetta dei 30.000 euro, cioè la stragrande maggioranza, anche se valgono meno rispetto al complesso, perché questo milione di domande vale quasi 20 miliardi di euro, i restanti sostanzialmente 88 miliardi sono andati per i prestiti più alti, quelli fino a 5 milioni, dopo i 5 milioni invece interviene la Cassa Depositi e Prestiti. Barrese, con lei ci eravamo sentiti quando il governo lanciò, vado a memoria, ad aprile, marzo-aprile, lanciò questo piano, soprattutto per la parte di garanzia al 100% di 30.000 euro e poi fino a 500.000 e 5 milioni. All'inizio vi erano stati un po' di vischiosità, c'era anche da chiarire la responsabilità penale nel caso poi il prestito, chi aveva sostenuto il prestito, dovesse un domani fallire. Mi sembra però che, a giudicare anche dalle non lamentele che riceviamo, che il meccanismo si sia molto oliato. Ma direi che alla fine possiamo considerarlo, almeno per questa fase, un successo, nel senso che la liquidità è arrivata, i numeri sono importanti, anche per quanto ci riguarda i numeri sono estremamente significativi. Fra prestiti sotto e sopra 30.000 noi siamo complessivamente a oltre 210.000, quasi 220.000 prestiti, posizioni affidate, e di queste circa 200.000 sono sotto i 30.000 euro. Il controvalore complessivo per noi si aggira intorno ai 19 miliardi, quindi direi che il sistema 19 miliardi, parte, in 19 miliardi in tutto, solo sotto i 30.000? In tutto, in no, tutto. Sotto i 30.000 sono circa 4, circa 4 sotto i 30.000, circa 15 sopra. Quindi complessivamente devo dire è un'iniziativa che, come abbiamo detto già a suo tempo, era costruita bene. Oggi in realtà bisognerebbe provare a ragionare su allungare la scadenza di questi prestiti. Questi sono a 6 anni, in particolare per quelli sopra i 30.000 probabilmente bisognerebbe trovare le condizioni per portarli su una scadenza più lunga, quindi non 6 anni, magari portarli intorno ai 10 e magari lavorando con l'Europa oltre i 10. Sì, perché c'era già stato un allungamento della scadenza e la moratoria, moratoria vuol dire che uno non paga gli interessi i primi 2 anni, giusto? Allora, la moratoria in realtà è un'altra cosa. No, volevo dire, scusi, ho sbagliato, il preammortamento, Sì, il preammortamento non si rimborsa la quota capitale per i primi 2 anni. Noi avevamo addirittura aggiunto un altro anno portandola fino a 3. Quindi questo consente di rientrare dal capitale appunto ottenuto a partire dal terzo, a questo punto dal quarto anno. Cioè i primi 3 anni si pagano solo gli interessi? Brevissimo, sì. Okay. Visto che citavo la moratoria, era un lapsus in qualche modo freudiano, perché volevo parlare anche della moratoria, che quella invece è stata una decisione spinta e sollecitata dal governo, che ha un valore, se non ricordo male, le cifre che ho a memoria sono circa 300 miliardi di euro, forse li avete anche superati. Si è applicata soprattutto, diciamo, ai prestiti dei privati o anche delle imprese? Beh, per quanto ci risulta sono abbastanza equilibrati come numeri in generale, come posizioni, come posizioni affidate. Noi complessivamente tra moratorie banca e moratorie di legge sulle imprese a noi risultano circa 300.000 le posizioni affidate e sono importi effettivamente molto, molto consistenti. Quindi in sostanza quello che voi avete fatto con la moratoria è spostare di là, allungare la scadenza, cioè voglio dire non versi adesso e si allunga la scadenza del prestito, no? Se ho ben capito. Beh, con la moratoria di fatto si sospende, perché abbiamo dato la possibilità di sospendere o il pagamento delle quote capitali o entrambi, quote capitali e interessi, quindi di fatto si aggiunge alla durata originaria del prestito l'intervallo della moratoria, poteva essere variabile, no? Quindi poteva essere di 3 mesi in 3 mesi sulla moratoria banca, o nel caso delle moratorie di Stato era previsto che arrivassero al 30 di settembre, adesso sono state posticipate al 31 di gennaio e prevedibilmente dovrebbero essere spostate a questo punto a giugno. Però terminato questo intervallo di tempo, che quindi potrebbe essere circa un anno, a quel punto significherà avere un ulteriore anno di durata dei prestiti. Sì, certo, viene allungato di fatto il mio prestito di un anno. Veniamo invece a imprese vincenti, perché questa, insomma, sono gli elementi tra virgolette emergenziali che il mondo bancario e anche voi avete messo in campo su richiesta del governo e su indicazione anche del governo. Imprese vincenti quest'anno è stato ricordavo un tour digitale, quindi non c'è stato il contatto fisico, non poteva essere altrimenti. Candidature però, se ho ben visto, sono state il doppio rispetto all'anno scorso. Che differenze ha notato lei, visto che appunto è il fautore dell'iniziativa, tra le eccellenze, eccellenze sono sempre eccellenze, però tra le caratteristiche dei vincitori delle eccellenze di quest'anno rispetto all'anno scorso? Sicuramente quello che ho notato è che queste aziende, veramente per le caratteristiche anche di un fatturato e di un'attività più diversificata, le vedevo sicuramente attenzionate rispetto al contesto che stiamo vivendo, ma comunque con una capacità di resistenza alle difficoltà che stiamo vivendo estremamente significativa. Cioè, una delle cose che mi ha colpito, ma poi lo vediamo effettivamente anche nella resistenza che stanno avendo oggi nel contesto, queste sono aziende che hanno avuto un fatturato negli ultimi, in particolare, anni in fortissima crescita. Cioè, complessivamente, vado a memoria, dovrebbe essere circa 3 miliardi il fatturato aggregato di tutte queste aziende, per cui sono PMI, ma messe insieme alla fine questo centinaio di aziende valgono almeno 3-4 grandissime aziende. E comunque il loro fatturato negli ultimi 6 anni è cresciuto almeno in misura pari a 10 volte superiore alla media del sistema. Cioè, quindi sono aziende che hanno saputo cavalcare la fase positiva e oggi stanno resistendo molto bene, pur nella diversificazione dei settori, perché comunque qui dentro abbiamo sostanzialmente un po' di tutto, dalla manifattura fino all'alimentare, piuttosto, come abbiamo detto, anche il terzo settore stesso. Esatto. Intanto sono aziende che hanno spinto anche sulla leva dell'occupazione, perché anche l'occupazione ha queste dinamiche importanti di crescita rispetto alla media del settore. Complessivamente questo panel vale 15.000 addetti, quindi anche comunque una numerica importante. Barrese, visto le caratteristiche che lei ricordava di questa edizione rispetto all'anno scorso, avete, come dicevo anch'io, introdotto anche il terzo settore come settore, diciamo, di imprese d'eccellenza. Ci si sta interrogando moltissimo adesso, immagino anche voi, sulla capacità, io odio il termine resilienza e quindi non lo userò, ma di resistenza, di capacità di reggere del modello di impresa italiano. Tutte le produzioni industriali, i modelli di impresa sono in difficoltà in questo paese, in questo periodo, non solo in Italia. Però c'è chi ha detto... Le opinioni si dividono in due scuole, mettiamola così. C'è chi dice: attenzione, noi abbiamo un problema di dimensione di impresa e di quindi capitalizzazione anche dell'impresa. E c'è chi ti dice: no, guarda, che rispetto a altri paesi, noi avendo una impresa diffusa sul territorio, molto diversificati, le filiere, i distretti, le reti di impresa, forse riusciremo a reggere meglio e riprenderci meglio rispetto a sistemi, viene spesso citato il mondo anglosassone, dove tu per esempio hai Londra come grande centro che vale il 20% del PIL, però poi hai sicuramente meno impresa diffusa sul territorio. Cioè, il fatto che noi siamo la seconda manifattura ma molto molto diffusi nella filiera del valore, viene visto come un elemento di maggiore capacità di resistenza. Lei per quale delle due propende? Cioè una difficoltà, una maggiore fragilità per via delle dimensioni, o invece una maggior capacità di resistenza proprio per la diffusione e diversificazione delle imprese nei vari territori, nei vari distretti? Ma io la vedo così. Secondo me entrambi gli elementi sono elementi positivi. Cioè, allora, chiaramente la dimensione più contenuta consente, se il business è solido, perché partiamo da questo, quindi se è un business solido, è altamente qualitativo e ben diversificato dal punto di vista geografico, consente una resistenza nei periodi di difficoltà maggiore, tanto più se ben interconnesso su alcune filiere fondamentali. Dall'altro lato, la dimensione innegabile che crea condizioni per importanti sinergie di costo. Quindi in realtà la dimensione va ricercata, non è un qualcosa che va ricercato a tutti i costi, perché ha senso che ci sia solo se le sinergie sono evidenti, altrimenti genera complessità, ed è chiaro che in un momento di difficoltà la complessità crea condizioni per perdite e non per vantaggi. Quindi in realtà sono entrambe le cose che devono essere presenti. Cioè lei dice il vantaggio della piccola, quando è appunto ben strutturata e appunto è a margine, è di essere anche più flessibile, se posso usare l'esempio della nave più piccola, ma che manovra con più facilità di fronte a una tempesta rispetto alle navi grandi, però la dimensione va ricercata solo nel momento in cui ti permette sinergie, quindi abbattimento dei costi e maggiori ricavi, non fine a se stessa. Mi dica un'ultima cosa, Barrese. È molto difficile fare, quasi impossibile fare previsioni adesso, però ormai tutti abbiamo preso atto della seconda ondata, speriamo non ve ne sia una terza ondata, ma lei che posizionamento, che prospettive ha sul 2021? Tanto ormai il 2020 ce lo siamo in buona parte giocato. Ritiene che, come sta scommettendo la borsa in questo momento, una volta che arriveranno i vaccini vi sarà una ripresa anche più forte delle attese, oppure vede ancora molti elementi di vischiosità? Io mi collego su un fatto passato che è stato sicuramente positivo, e poi chiaramente la borsa vive sulle aspettative. Allora, noi abbiamo visto cosa può essere un ritorno a una normalità, quasi normalità, con dei comportamenti che chiaramente devono essere ben presidiati, e l'abbiamo visto durante il periodo estivo. Cioè togliamo gli eccessi, ma il periodo estivo ha raccontato un momento dove un ritorno a una normalità o a una quasi normalità con comportamenti adeguati comporta una ripresa adeguata dell'economia e la possibilità per la stessa di poter crescere. Dall'altro lato il vaccino ci dà un'importante copertura futura, e oggi quello che stiamo vedendo sulla borsa è esattamente questo. Cioè la borsa scommette sulla possibilità che la ripresa possa essere effettivamente più rapida, ma tutto passa attraverso comportamenti adeguati, e quindi dipende molto da noi. Allora, grazie anche a Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. Arrivederci. Allora, mi scrivono ascoltatori sulla resilienza. No, io ritengo semplicemente che il termine sia strabusato. Qualcuno mi dice: ma non parlate degli allestitori delle fiere? Mi dia qualche minuto, ci arriviamo dopo il GR, ci sono anche i nuovi dati, vi aggiornerà anche il GR24. Comunque sono saliti i morti, 822, i casi sono 29.000, ma con un alto numero di tamponi. La notizia, dunque, la percentuale positivi tamponi, che ieri era scesa all'11,2, è tornata a salire al 12,4, però per la prima volta dall'inizio della seconda ondata c'è un calo, per quanto leggerissimo, nei pazienti in terapia intensiva, 2 in meno, quindi sono 3.846, così come invece continua per il terzo giorno consecutivo il calo dei ricoverati in area medica, che sono scesi di 275 unità a 34.038 in più. 24.000 guariti o dimessi in più di ieri, e poi adesso appunto tutte le altre informazioni del GR24. Invece Flavia Carletti, noi restiamo sul tema di borsa, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Flavia, oggi la borsa era senza il senza Wall Street per il Thanksgiving e si sono mossi in maniera abbastanza neutra. Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra meno 0,40, Milano meno 0,46, però siamo sempre sui livelli massimi dal pre-Covid. In evidenza soprattutto A2A e Telecom, e poi vorrei un tuo commento su anche su Creval, perché ho visto che il titolo è sopra il livello dell'offerta, però lo facciamo dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. Oggi le nostre certezze cambiano sul lavoro. Scusate, ero in muto. Nel tempo libero. Come si accende questo monopattino? Papà, te l'ho appena spiegato! Oggi le nostre certezze cambiano su tutto, ma almeno sull'energia possiamo stare tranquilli. Con Enel One di Enel Energia, scegli il piano più adatto a te e se consumi di meno o di più, gestisci tutto con il tuo salvadanaio direttamente dall'app, con una monetizzazione annuale. Vai su Enel.it o vieni nei nostri negozi spazio Enel. Enel Energia per il mercato libero. È la settimana del Black Friday di Amazon. Cosa pensi di fare? Anche questo Natale compri tutto all'ultimo e ti sorbisci le solite facce perplesse. Oppure compri ora e ti godi le facce felici. Ma che bello! La settimana del Black Friday di Amazon è dal 20 al 30 novembre. Amazon, acquista ora e poi rilassati. Disponibilità e condizioni delle offerte su Amazon.it. Bentornato a Yoga One to One. Oggi proviamo la posizione Kia. Sdraiati e rilassati. Il lavoro ti stressa? Scegli Kia Renting e goditi tanti vantaggi senza nessun anticipo. Con il noleggio a lungo termine Kia Renting, Xeed Plug-in Hybrid è tua da 375 euro al mese e anticipo zero. Durata 36 mesi e 45.000 km. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre 2020, salvo approvazione Arval Service Lease S.p.A. Dettagli e limitazioni su kia.com e nelle concessionarie aderenti. Kia, the power to surprise. Amore, va bene lo stesso se il caffè è senza zucchero? E come mai? È caduto tutto sul pavimento del tuo studio. Non ti arrabbi, vero? Ma va, chiedi a Roomba di pulire. Il robot aspirapolvere Roomba pulisce casa dove e quando vuoi. Lo controlli con lo smartphone tramite iRobot Home App o con il comando vocale. E non ci pensi più. Provalo per 60 giorni. E fino al 30 novembre risparmi fino a 300 euro sui robot aspirapolvere Roomba top di gamma. Iniziativa valida presso gli store aderenti e su iRobotStore.it. Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barizzoni. Dunque, Flavia Carletti, dicevamo, oggi in evidenza in borsa A2A Team e poi anche un commento sul credito valtellinese che continua a rimanere sopra il prezzo dell'offerta del Crédit Agricole. Flavia. Appunto, A2A è stata la migliore del FTSE MIB, ha chiuso alla fine con un rialzo superiore al 4%, del 4,18%, e oggi la società ha annunciato di aver siglato un accordo con il fondo Ardian per lo sviluppo di tecnologie legate all'idrogeno verde. E anche se non sono stati dati al momento dettagli ulteriori su questo accordo, che comunque è un memorandum of understanding e quindi dovrà essere implementato, comunque il mercato ha accolto questa notizia positivamente. Mentre invece TIM ha chiuso con un più 3,92%, con un'accelerazione sul finale, perché si aspettano sviluppi sulla rete unica. Oggi in concomitanza della visita di Le Maire, il ministro delle finanze francese in Italia, c'erano, secondo indiscrezioni, anche incontri di Vivendi e il governo italiano, secondo il Sole 24 Ore, ha chiesto ai francesi di non ostacolare il progetto di rete unica e quindi il dossier è tornato sotto i riflettori. Mentre invece il Creval continua ad essere sopra il prezzo dell'OPA lanciata da Crédit Agricole Italia. Oggi ha chiuso con un rialzo dell'1,3% a 11,498 euro, mentre invece il prezzo dell'offerta è 10,5 euro. Quindi il mercato probabilmente continua crede o scommette sul fatto che possa arrivare un rilancio, anche se al momento i vertici di Creditizia Agricola Italia hanno detto che il prezzo è adeguato e anzi il fatto che rappresenti un premio del 21,4% rispetto alla chiusura di venerdì scorso, perché l'offer è stata lanciata poi lunedì, secondo loro è adeguato, e addirittura dicono il fatto che l'offerta sia cash comunque è già di per sé un premio, mentre invece diciamo che il mercato, il fatto che il titolo non rallenti, anzi continua a salire, fa pensare che poi possa arrivare una mossa come quella di Intesa San Paolo su Bibanca, che ha negato fino alla fine diciamo la possibilità di rialzo, invece poi l'ha fatto. E oggi diciamo che il consiglio di amministrazione del Creval si è riunito ieri e è uscita una nota nel quale ha detto che comunque era inaspettata e non concordata questa offerta. E poi diciamo oggi un fondo attivista inglese, Petrus, che anche se non si sa esattamente quanto abbia di Creval, ha detto che secondo loro l'offerta è inadeguata e dicono che anche se c'è questo premio appunto del 21,4% sull'ultimo prezzo di chiusura, secondo loro è significativamente inferiore rispetto a quella che è la media delle operazioni analoghe in Italia, che addirittura loro considerano tra il 25 e il 35%, e addirittura poi quella di appunto di Intesa Subito, a cui abbiamo accennato, aveva un premio del 44,7%, e quindi sostengono che non sia assolutamente un'offerta da ritenere valida in questo momento. E in più c'è alcuni analisti mettono in evidenza il fatto che potrebbe esserci, o diciamo che potrebbe arrivare alla fine un aumento di questa offerta, perché si aspetta l'approvazione definitiva degli incentivi fiscali al consolidamento, che potrebbe valere 400 milioni, quindi 5 euro per azione. E col fatto che molti target di prezzo sul Creval degli analisti sono superiori agli 11 euro addirittura toccati oggi dal titolo e superati dal titolo, quindi diciamo che c'è questa attesa sul mercato che comunque continua ad alimentare gli acquisti sul titolo. Sì, un mercato appunto che, come tu hai spiegato molto bene, scommette che quantomeno arriverà un'offerta superiore, quindi un premio superiore a quell'offerta dal Crédit Agricole. Grazie anche a Flavia Carletti. Noi invece adesso passiamo dalla borsa a un settore economico. Noi stiamo cercando di avere come ospiti tutti i rappresentanti di vari settori economici, a maggior ragione quando lamentano di essere stati poco coinvolti nei ristori. Adesso ho già spiegato prima il ristori 4, a cosa servirà per il rinvio fiscale, poi il 5 dovrebbe includere anche altre categorie. Parliamo delle fiere, ma non delle fiere in sé, ma di chi lavora con le fiere, quindi quelli che si chiamano in gergo allestitori fieristici. Stiamo parlando di sostanzialmente un numero di aziende che hanno un settore che vale 1,5 miliardi di euro e 120.000 lavoratori coinvolti. L'80% del fatturato nel 2020 se n'è andato in fumo. Allora, Sandro Stipa, presidente di ASAL, appunto agli istituti fieristici italiani, che fa parte di Federlegno Arredo, buonasera. Buonasera. Dunque, voi, se ho ben capito, lamentate che nella parte dei ristori, poi vedremo ristori, il quinto ristori, insomma, solo il 14% delle aziende del settore sono state considerate aventi diritto ai ristori. Le chiedo com'è possibile, visto un calo di fatturato appunto che voi stimate intorno all'80%. Sì, è possibile, purtroppo, data l'inadeguatezza dello strumento. Noi riteniamo che i codici Ateco siano adeguati per inquadrare il nostro settore. Il nostro è un settore molto ampio che raggruppa una serie di professionalità, dai progettisti ai designer, agli elettricisti, ai decoratori, ai montatori, ai grafici. Ci sono una serie di professionalità che rientrano, diciamo, nella nostra intera categoria, e purtroppo le imprese del nostro comparto, non avendo un codice Ateco specifico, nel corso degli anni hanno cercato di individuare dei codici Ateco non appropriati, evidentemente, che attualmente le hanno viste al di fuori del decreto ristori. Come giustamente ha detto lei, soltanto il 14% delle imprese attualmente sono indennizzate dai ristori previsti dal decreto. Allora, per quello che riguarda invece i ristori, faccio notare che, come oggi pubblicato al Sole 24 Ore, il primo decreto Da chi ne ha beneficiato di più è stata la ristorazione con 190.000 imprese per 1 miliardo, l'alloggio con 48.000 imprese per 245 milioni e le attività sportive 21.000 imprese per 118 milioni. Parlo del primo ristori, quello sostanzialmente del 150%, 200%, 400%, che non è avvenuto in un momento in cui non c'erano ancora le zone rosse. Poi abbiamo avuto il ristori bis, che andava invece a integrare ulteriormente le attività nelle zone rosse, e poi ristori ter, che integra ulteriormente quelle regioni che sono diventate rosse. Tornando a voi, la soluzione quale potrebbe essere? Perché il governo ha detto il Presidente del Consiglio, ha detto il Ministro Gualtieri, che si cercherà di allargare poi anche con il ristori quinto alle categorie non coinvolte, sono stati citati soprattutto i lavoratori autonomi. Voi state dialogando con il governo, col ministero, per far rientrare correttamente chi ne è rimasto escluso? Sì, noi abbiamo aperto un dialogo nel mese di ottobre con il ministero, è stato aperto anche un tavolo al Ministero delle Attività Produttive. Riteniamo che il mese di aprile non sia un riferimento corretto, perché nel mese di aprile la maggior parte delle imprese italiane erano in lockdown. Noi purtroppo siamo di fatto in lockdown dal 24 di febbraio, lo saremo fino alla fine dell'anno, ma purtroppo lo saremo anche fino alla primavera inoltrata del 2021, perché come è noto, notizia di oggi, il Salone del Mobile di Milano è stato posticipato a settembre, il Vinitaly è stato posticipato alla fine di giugno, la maggior parte delle manifestazioni in Europa pianificate nel primo quadrimestre del 2021 sono state posticipate, addirittura alcune anche al 2022. Purtroppo l'attività fieristica necessita di una pianificazione che va dagli 8 ai 12 mesi. Quindi c'è anche grande scetticismo da parte degli espositori per impegnarsi. Cosa chiediamo al governo? Cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto di considerare non soltanto il mese di aprile, ma di considerare dal 1 di marzo al 31 dicembre, che ci sembra la cosa più corretta, la mancanza di fatturato, la differenza di fatturato rispetto allo scorso anno. Noi possiamo dire che potrebbe essere la misura quella del valutare le imprese che hanno avuto una perdita di fatturato superiore al 60% su base annuale o superiore al 70-80% nel periodo. Una cosa molto semplice, e tra l'altro la nostra attività è facilmente desumibile anche con la fatturazione elettronica. Sì, da quello che noi abbiamo capito, in effetti il governo nel nuovo decreto ristori, appunto quello di, dovrebbe modificare il periodo di riferimento. Anche a me adesso fu usato aprile per quando si era nel primo provvedimento, quello di maggio-giugno, perché era il mese insomma più simbolico. Adesso è stato usato aprile, come abbiamo spiegato molte volte, perché dava la maggiore rapidità nell'erogazione dei ristori, perché molti in automatico chi l'aveva ottenuto per il mese di aprile l'ha ottenuto con l'aumento appunto del 150 del 200%, e quindi anche per velocizzare. Però è innegabile quello che lei dice, non vale solo per lei, cioè anche per il vostro settore, prendere in considerazione un periodo più ampio ti permette anche di dare una fotografia più corretta, più a fuoco, di quello che è stato il calo del fatturato. Io mi auguro che l'interlocuzione che avete con il Ministero porti appunto all'ingresso o un nuovo codice ATEC, oppure comunque, e soprattutto lo faccia guardando un periodo più ampio nel 2020 rispetto al 2019. In bocca al lupo a lei, a tutti gli addetti, 120.000 lavoratori del settore, grazie anche a Sandro Stipa, presidente di ASL, degli allestitori fieristici italiani. Noi restiamo in parte in tema, perché sappiamo che il ristori va a tamponare quelli che sono i cali di fatturato, tamponare parzialmente i cali di fatturato, anche se va sempre ricordato che quei soldi sono netti, e per averli e per farli netti avresti dovuto comunque avere un fatturato ben superiore a quello che ti viene dato. Ma è innegabile che poi la parte più grossa si giochi sul piano di rilancio. Il piano di rilancio si chiama Next Generation EU Recovery Fund, di cui mi interessa sì i settori, ma lì l'Europa è stata già abbastanza stringente: digitalizzazione, circular economy, quindi il verde, sostenibilità ambientale, e politiche di coesione, e quindi gli investimenti infrastrutturali. Mi interessano i settori, ma mi interessa soprattutto l'aspetto procedurale, cioè chi deciderà, che corsie preferenziali eventualmente verranno messe in atto, E chi poi controllerà non solo l'avvio ma il proseguo dei lavori? Se ne è discusso oggi in un convegno, in un rapporto organizzato dalla Sonime, che è l'associazione italiana tra le società per azioni. Allora, Innocenzo Cipolletta, attualmente presidente di Assonime, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Senta Cipolletta, lei è economista, è stato direttore generale di Confindustria, insomma conosce bene il mondo delle imprese ma anche il mondo, diciamo, dei ministeri. Allora, detta proprio schietta schietta, che cosa temete voi? Perché al di là di poi di dove verranno indirizzati gli interventi, lì c'è un controllo molto forte europeo, non è che tu possa usare i ristori per altre cose, scusatemi, il recovery fund per altre cose, però noto ancora molta nebulosità, molto così segretezza su come funzionerà. Io la chiamo cabina di regia, anche se non mi fa impazzire come termine, ma quello che gli inglesi chiamano l'accountability, chi ne risponde, chi è che poi deve andare a verificare e a controllare lo stato d'avanzamento delle opere. Sì, guardi, proprio per questo come Assonime abbiamo fatto uno studio e una riflessione con un gruppo di lavoro per costruire una architettura in maniera tale che le decisioni che vengano prese possano, diciamo, correre lisce, nel senso che possano evitare quelli che sono degli intoppi da conflitti di competenze, perché uno dei problemi principali dell'Italia è che quando si fa un progetto poi ci si accorge che si è scavalcata una regione o un comune, ci si accorge che bisognava prima prendere o fare una legge per modificare certi aspetti. E quindi quello che è importante è che questo recovery plan sia in qualche maniera organizzato in modo tale che siano ridotti al minimo quelli che sono alcuni elementi che possono frenarlo, fra cui in particolare alcuni aspetti di carattere burocratico. Difatti noi terminiamo la nostra raccomandazione con alcune proposte di semplificazione di quelle che sono il sistema burocratico italiano. Detto in estrema sintesi, noi diciamo abbiamo già innanzitutto scelto di non costruire nuove architetture, perché l'idea di costruire una nuova task force, un nuovo sistema che va a sovrapporsi a quelle già esistenti, non funziona, perché va in collisione con le competenze del sistema burocratico esistente. Allora abbiamo pensato che debba essere il Consiglio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sede della decisione, che un ministro, in particolare quello per i rapporti con l'Europa, che oggi ha la competenza del rapporto con l'Europa per il recovery plan, sia quello che sia delegato alla implementazione. Quindi il ministro Amendola in questo caso. Diciamo. Il ministro Amendola, che a lui faccia parte una sorta, come ha detto lei, di cabina di regia, se vogliamo un gruppo di responsabili delle diverse amministrazioni che abbiano pieni poteri per poter decidere quello che si deve fare. Questo gruppo dovrà vagliare tutti i progetti, identificarli questi progetti, e poi ogni progetto avrà un suo capo esecutore che ha la responsabilità di portarli avanti. Questa costruzione merita una normazione, quindi una legge, un DPCM con quello che si vuole fare, in maniera tale che venga costruita, ma non modifica le amministrazioni esistenti e le rende più snelle il lavoro delle stesse. Quindi voi non immaginate un ministero ad hoc, ma che tutto faccia capo al ministero, al ministro Amendola? Ci sembrava che il ministro Amendola, essendo un ministro senza portafoglio, avendo i rapporti con l'Europa, possa essere migliore. Poi ovviamente noi su questo qui, se il Presidente del Consiglio vuole dare a un altro o una coppia, non è che possiamo dire niente. Però l'importante è che ci sia un grado di ministro che abbia l'obbligo dell'applicazione. Perché se non è a livello di ministro, poi non ha il potere di poter implementare tutte le azioni. Quindi non un commissario, insomma, ben capito? No, cioè, commissari l'abbiamo visto, ha portato a qualche risultato, ma poi alla fine andavano in Presidenza del Consiglio e di lì non succedeva più nulla. Ecco, mi dica una cosa Cipolletta, lo chiedo più l'economista in questo caso, ma molti ascoltatori mi scrivono sostanzialmente, ma se in questi 30 anni non siamo mai riusciti a utilizzare appieno i fondi europei di coesione per le aree del nostro sud, ma non solo, e soprattutto le regioni che più ne avevano bisogno non sono riuscite a utilizzarli, Che chance abbiamo di utilizzare una marea di soldi come i 209 miliardi in tutto, 81 di sovvenzioni e il resto prestiti? La battuta che ho fatto io è, beh, probabilmente, lo dico col massimo rispetto, ma tagliando fuori le regioni, che sicuramente in questi anni non hanno dato, soprattutto quelle che ne hanno bisogno, dimostrazione di saper usare questi soldi anche per assenza di figure interne, troppi laureati in legge, ho detto io, e pochi manager dentro le regioni. Lei da economista ha lo stesso timore o ritiene che se venisse sviluppata questa nuova forma di, diciamo, di governance, la chiamo così, potremmo ovviare a quel problema? Beh, io abbiamo lo stesso timore ed è proprio per questo motivo che abbiamo disegnato questa architettura, che non esclude le regioni ma porta le regioni a convergere con il ministro delegato e con un sistema nel quale il ministro possa avere la capacità di decidere quando c'è uno stallo, cioè quando ci sono dei conflitti di competenza forte, in maniera tale che non ci sia il veto da parte di nessuno. Dopodiché vorrei ricordare che questo paese ha anche realizzato, l'abbiamo visto, un ponte straordinario in tempi relativamente rapidi, quindi è vero che nel passato non siamo stati mai molto rapidi, però sappiamo anche che quando ci si mette lo si può fare. Voglio giusto dire una cosa, è importante che l'Europa riesca, perché che l'Italia riesca, perché l'Europa ha cambiato politica soprattutto per aiutare paesi come l'Italia. Ora, se l'Italia non utilizza bene questi fondi, finisce che arreca un danno a tutta l'Europa, perché i governi degli altri paesi, che hanno sempre mantenuto uno scetticismo nei nostri confronti, diranno: vedete, non serve a niente fare una politica di sostegno, torniamo alle politiche dell'austerità che sono molto meglio. Quindi noi abbiamo una grossa responsabilità, che se falliamo facciamo fallire l'Europa, ed è per questo che non possiamo fallire, ed è per questo che noi vogliamo un sistema che garantisca che non ci siano quei conflitti di competenza che spesso hanno bloccato le nostre attività. Allora, io spero che appunto venga accolta comunque anche la vostra proposta, ma soprattutto spero di avere un meccanismo, di leggere, di venire a conoscenza anch'io di un meccanismo facile nella comprensione, ma, e ripeto, facile nell'accountability, in chi ha in mano, diciamo, a chi fa capo tutto il progetto, poi con tutte le divisioni delle varie opere, ma insomma chi è e chi parla, il potere, sono d'accordo con lei Cipolletta, anche di andare oltre gli stalli qualora vi fosse un veto degli enti locali o un'opposizione, che siano regioni, comuni e quant'altro, perché non possiamo iniziare a immaginare un recovery plan dove il TARD ha l'ultima parola, lo dico in maniera molto chiara. E soprattutto che poi si sappia esattamente chi regge i cordoni e il filo dell'intera operazione. Grazie Innocenzo Cipolletta, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, torna chiaramente la poco invidiabile classifica.